che vado a prendere una cosa e dal momento non mi ricordo cosa devo prendere. Sì, ma io sono sempre stato così un po' smemorato, è la verità. Quindi proprio il mio deve essere un difetto congenito. Che... Quindi adesso mio padre c'ha un po' di Alzheimer, non si ricorda le cose recenti, ma le cose... No. Sì, sì, è così, fatta. Fatta bene così. Purtroppo... Ma è peggio il Parkinson, non so se ieri hai visto Jerry Scutti. Ma... No, non so cosa ho visto ieri, ma come la metto, a proposito. C'era lo show dei record, c'era, no? E c'era questo tipo che aveva il Parkinson, si tribulava tutto. E ha capito perché era con la figlia in braccio, scendendo alle scale, è caduto e ha capito che doveva fare qualche cosa perché potesse, perché si sono fatti male tutti e due, sono caduti dalle scale. E doveva fare qualcosa perché potesse rafforzare i muscoli, roba del genere. È un bravissimo atleta, adesso se vedi cosa tutto fa, Puglia. È bravissimo. E ha fatto una sfida con uno, ma per un secondo ha vinto l'altro. Ma erano bravi tutti e due. E beh, che cosa ha inventato? No, non ho inventato nulla, fa sport di tutti i tipi, capito? E camminava, e presente come fa la rana quando salta, saltava e andava lì per i superiori con le quattro zampe praticamente, si dava i colpi di reni e saltava con tutte e quattro tra mani e gambe, capito? Non so se mi spiego. Un salto come lo fa la rana. Come si chiama lo sport? Il parkour? No, non è parkour, è un'altra cosa, praticamente salgono dei piani, dal primo piano sino all'ultimo, sempre saltando così, all'ultimo però sono crepati. Break, break, break, break! Avanti, chi è? Finalmente! Sì, io sento un basso, chi è? Avanti, buonasera! Antonio sono, cazzarola, mi sentite? Dove sei? Dove? Ah, in macchina sì! Faccio un po' di QRM, ma penso che già stia uscendo però. Aspetta che aumento un po', adesso mi ascolti meglio? Ora sì, c'avevo un po' di QRM, c'avevo. No, la radio è bassa, radio 1-2. Ma sei in macchina, così? No, sono qua in deposito, sono. Sì che ti sento, già non ne ho problemi. Ok, vediamo un po' come ti sente Gianni, poi ti ascolta meglio Gianni. No, io l'ascolto bene, dai, avanti. Ma perché tu mi ascolti basso? Io qui perché lo sai com'è la mia antenna, no? Ma che lo sia per un comodo, caro, non prende nulla quella cosa. Cosa ha detto? Allora fatti dare un globo. No, non hai giocato, amico. Mamma sta scherzando cosa? Ma perché tu non mi senti nulla, nulla, nulla, io già ti sento a te. Non ho capito adesso, c'è che c'è un po' di propagazione. No, io l'ho sentito un po', forse si è avvicinato troppo il microfono alla bocca, un po' impastata. E vabbè, comunque, ti ascoltiamo, anche un interessante ghiaccio. Quando ti arriva a te? Santiago 7, Santiago 7 Radio 5. Oh, ma Santiago 7 Radio 5. E io come vi arrivo? Buonasera a tutti. C'è qualcuno pure? Buonasera, tu già mi arrivi bene già qua. Sono i maglietti in macchina. C'è Gianni, buonasera, Antonio e poi non ho capito chi c'è. Ma tu sei Santiago 9 Radio 5, una bomba. Cappa, 9910, dai, movimento, da che zona stai passando? Antonio, via Pagliettino, sto andando verso, diciamo, lo stadio della Torre. E verrà che mi senti sempre più forte a me. Cappa, cappa, un po' di QRM c'ho io stasera, chissà che mala, in malasussi, beh, c'ho un pochino di QRM. Con chi sta parlando? Con Carlo, con Carlo. Ciao Carlo, ben entrato, ben sentito, buonasera. Buonasera, sono uscito adesso a fare un po' di commissioni, ho accesso e ho sentito la chiacchiera e per quello che sono entrato a salutarvi. Cappa, cappa. E ieri non sa mai cosa mi è successo, mi saltavano i fusibili da 7:30 nella macchina. Non capivo cos'era. Gli ho messo un po' di cerecine nei contatti della batteria, poi gli ho pulito l'antenna e adesso non mi brincare più. Forse troppo debole. No. C'era qualche corto sicuramente dall'umidità, qualche cosa del genere. Dove sei arrivato, Carlo? Allora sono all'incrocio tra, diciamo, al semaforo di via Gramsci, davanti, adesso sono davanti alla Conad. Cappa, sempre più forte qua, sempre più forte. Ma sta rientrando o sta andando a Alghero? No, sono in città a fare commissioni, sto andando in figlio alla casa della chiave per farmi una coppia come si deve. Poi che mi passi qua, cazzo. A Maletta ti arrivo poi. Ma perché l'hanno trasferita la casa della chiave? Non c'è più via Vendola. In via Napoli era, c'è una ditta, questa storia. E dove l'hanno messa adesso? Ho trovato il ruglio. Che pagata. Più giù, dai. Vabbè. Ecco perché l'ho cercato e non l'ho trovato l'altro giorno. Un coso mano, compreso, bello assortito. Di Mura, no? Di Mura era. Beh, quando lavoravo lì in zona, via Galileo Galilei, ci servivamo lì, da lui. Chi è lavorato tu? E lì facevamo infissi in alluminio via Galileo Galilei, ma ti parlo di 40 anni fa, forse che no di più. Sì, c'è una diggia. Sì, perché l'alluminio usciva in mezzo alla strada. Quanti anni avevi allora? Una quindicina, Ah, giovane giovane. Sì, sì, 15-16, era di mio cugino quell'officina, però era un buco. Ripeto, quando tagliamo la verga da 6 metri e mezzo, c'era il ragazzo che la teneva fuori perché prendeva il marciapiede anche fuori, forse anche le macchine. È allucinante, era piccola l'officina. Era stretta e lunga, però la troncatrice era in mezzo perché devi tagliare anche pezzi da 4-5 metri, quindi devi avere anche lo spazio per la parte opposta. Quindi se tagliavi un pezzo corto ti usciva a mezzo della strada. Cappa. Datemi un secondo, dai, che vado in bagno e te lo scelgo. Ehi, già, non ti preoccupare. Carlo, dove sei arrivato? Via Duca degli Franco. A Maletta. Venimi. Visto l'avevi il portabile che mi avevo comprato ultimamente? Sì, sì, l'avevo andato. Piccolino, è proprio un mattoncino, eh. E di lusso è quello. Ok, va bene. Con quello mi stavi rispondendo? Adesso sei arrivato a fondo scala, Carlo. E adesso ho girato il via Napoli. Io a Carlo non lo sento ancora. Tu lo senti, Natalì? Lo stavo sentendo poco fa. La macchina più avanti si antenna di gomma. No, siete voi che dovete aumentare potenza. E cosa faccio in opere? Le mutande faccio. Non bastano, io qua ne sto usando almeno 300. Ma dai, bianco per me che mi hanno stanno chiamando. Mi dispiace che non sento a Carlo però. Ma sta rientrando o andando sta? Poi gliel'ho chiesto ma poi non mi ha risposto, o se mi ha risposto non ho capito. Natali, facendo missioni sono, Piazza Salvatore Ruiu. Stai rientrando o stai andando, Carlo? Ho già dato per oggi, sono in città a fare commissioni. Non è comprensibile, che. Siamo nelle stesse condizioni, Natali, anch'io sento che ha parlato, ma non riesco a tirarlo fuori. All'inizio sì, quando è entrato, poi l'ho perso. Evidentemente sta andando. Natalino, se mi senti sono in piazza Ruiu. La più sicura, eh. Ha detto che è in piazza Ruiu, così hai detto. Sì, la chiave. Ehi, a fare la copia di una chiave. Piazza Salvatore Ruiu, ma è sempre lì in zona lì. Attenzione Carlo, se ascolti Sassari, cambio. Sarà Sassari, in piazza Salvatore Ruiu è vicino a via Napoli lì. Salendo praticamente un po' prima di dove era. Di dove era prima, dai, adesso un po' prima, salendo sulla piazza. Non so dove sia proprio il punto giusto, però è lì la piazza. E all'altezza via Rizzedo, rimane lì. In quella specie di crocevia largo, dai. Quindi cos'è? 100 metri prima di dove era precedentemente. Si sta spostando di frequenza, man mano che scala, resta parecchio, si sta spostando di frequenza. Adesso vedi, al centro mi segna 27074. Già, di uno si è spostato. Vuole tutto calibrato, vuole. C'è la gente che stava parlando e non ti potevo rispondere, ho tolto l'audio. Io ho detto che mi si sta spostando le frequenze, man mano che scalla, eh. Da 27075 si è passato a 27074. Un chilo. Lei si è spostato di un chilo, mantenendo le, diciamo, le pomelli centrali, dai, centrati. Per mettere 75 devo spostarmi col cursore leggermente a destra. Sì, leggermente, un bel. Addirittura con lo centrale non ci riesco. Devo usare il corso. Sì, vabbè, tanto in 27 se si sposta non fa nulla. No, no, se ne accorgi in banda laterale magari. Vediamo se cambia. No, rimane sempre uguale la frequenza, anche se mi sposto di banda. E che apparecchio è questo? Il Samurai. Magari si è spostato il frequenzimetro, ma non lui, capito? No, no, proprio si sposta di frequenza, proprio. Che me ne accorgo, quando vado a centrare poi in mano laterale io devo spostare il cursore. Se lo lascio centrale li sento spostati, capito? Quindi è proprio la frequenza che vuole riportata al centro, dai. Lì ci vuole un frequenzimetro professionale per farlo e uno ve lo sappia fare, giustamente. No, è tutta roba da fare a strumento. Poi c'è anche l'FM che anche questa vuole tutta regolata, non esce bene, non riceve bene neanche l'FM, leggermente deviato. Vuole riallineato quell'apparato, da. Sì, è peccato, tutti e due, anche l'altro, io più o meno sono uguali. Sarebbe da dare una bella riallineata, ma ormai qua, sì, forse c'è cosa che lo potrebbe fare, come si chiama? Come viene il nome? Fabrizio. Solo Fabrizio potrebbe farlo qua. Però è sempre pieno, anche lui è sempre pieno di lavoro, dai. Tanto questo è già, per quello che facciamo noi va bene. Se non usi la banda laterale non gli fa nulla. Ehi, se no già lo cerco, piano piano a seguirlo vado. Ho capito. Vediamo poi se è diventato Gianni. Vabbè, prende mala. Prende mala. Sì, Natalino non mi sente. Già ti sento, Antonino, bombolino, bomboletto. Adesso ve ne approfittate perché c'ho un apparecchio di gomma, cara. E allora, ribaviru, ribari. No, ma devi essere proprio una zona negativa per me, Oggi lo sento basso, Antonio, sicuramente è nella zona di lavoro, però non sta uscendo come gli altri giorni. Prendi il suo M, non è che cambi la storia. Quanto ti arriva a te? È basso di radio, mi arriva. E il segnale? Non ho guardato, tanto prova a vedere. 2-3 prova. Santiago 8 mi stai arrivando. Vabbè, bisogna correre a rifare. Solo. A me uno. Ciao Marco, e a te quando ti arriva a te Marco? No, scusate, mi ero stupito, Santiago 8, qua arriva 9P10 bombolo. Ehi, c'è ancora un bel canale per te. Quanto arriva a te, Franco? Buonasera a tutti. A me segnale 1, radio 1-2, non di più. Che cacchio, è incredibile Natalì, la differenza anche tra me e te. Eppure pur sempre un'antenna sul tetto la tua, riprendi Natalino. Ciao Marco, buonasera, ben sentito. Purtroppo la mia, l'antenna è bassa, è logico che la mia esce un metro dal tetto mio, da dei gridi, ed è coperta dai palazzi e cose varie. Infatti adesso quando piazzo l'antenna nuova la tirerò su di altri 3 metri e riceverò bene tutti. Vabbè, c'è ragione, sì, perché poi la zona di Antonio è tutta a salire, lì Via Lamberto è tutta a salire, poi sale ancora, quindi se nel QTH Trabacco, è vero. Antonio, ma nel QTH Trabacco che antenna hai messo? L'altra Ringo, quella... Via, quella che ho riparato. Ma no, non ce n'è stazionare qua, no. E ci sono inesistenti. La prossima ghetta te la faccio vedere io. Mi metto, cambio l'alimentazione. switching. Attacco 747 e poi voglio vedere. Cappa. Dovevo andare a pagare l'assicurazione, ma l'assicuratore non ha risposto. Forse i soldi non ne vuole, meglio così. E cappa l'assicurazione. Avete parlato in due, credo. Senta, di assicurazione cosa c'hai? Chi c'hai? Non si dice. È un segreto di Stato. Dai, prendete che io sono entrato solo così a... Mi ero stupito come ho sentito il segnale un attimino. Ho detto all'anima ogni differenza. Va bene, vai Franco. Sì, ho notato che sei spostato di anche più di un kilohertz. Appena acceso ti ho dovuto centrare. Ma in AM non è un problema comunque, dai. Anche questo andrebbe comunque un pochino centrato. Mi sono accorto che in ricezione, ma anche in trasmissione, bisognerebbe fargli una bella tirata d'orecchie. A questo e anche all'altro. E tu hai tutte e due 3009, perché come escono in fabbrica sono veramente, non c'è né controllo qualità, capito Fra? Anche se mettono il bullino QC Passed. Sì, no, questi andavano bene, in verità. Molto sordi come segnale, infatti li sono tutti un po' smanettati, sennò diversamente l'ago non è che si muoveva. E poi adesso sono rimasti solo un po' da centrare, basta, poi il resto funzionano bene, dai. Tutto qua. Avanti Natale. K. Marco, non è che c'è un baracchino piccolo da mettermi in macchina, no, omologato, però che esca, non come questo che ho regalato. L'ho regalato a un amico, quello che avevo, il Polman mi sembra si chiamasse, boh. Da mettere in macchina vabbè, no, da dare no, ne uno che ha la modulazione un po' più spinta, ma non è piccolo. E cosa consigliarti? Il Polmar, vabbè, è nato così. Solo che Natali, se tu metti questi baracchini piccoli, cioè in AM non spingono niente, gli puoi alzare anche la modulazione, però lo devi accoppiare a un preamplificato, perché altrimenti dalla macchina non c'è storia, anche se gli aumenti la LC in AM. Cioè, come scendi di segnale in barra mobile ti diranno che la radio è bassa, capito? E comunque se dovessi prenderne uno io prenderei a occhi chiusi il più piccolo che c'è, sta nel palmo di una mano, il PNI Escort 6500, 49,99, spedizione compresa da Amazon. Prenditi quello che ho io, Natali. PNI, N come Napoli? PNI, sì, Palermo, Napoli, Imola. Tu hai quello lì, interrogativo. No, tutto, ma questo che ho è meglio, piccolo, si chiama Presidente, stazione della banda e ci tirano su anche un pochettino i VAT, ed è colino piccolino. Quello è bello, Adesso me lo guardo, riprendete pure. L'antenna Marco, l'Imortasci 2. Com'è la sigla? PNI Escort 6000? Allora, Escort 6500, 6500. L'aveva preso anche un CB radioamatore, ce l'ha anche un altro ragazzo che ha modulato a Sassari. Bisogna solo aumentargli la modulazione AM perché è veramente troppo chiusa di fabbrica e appena appena la deviazione FM. Guarda che sono molto simili, praticamente PNI 6005 alias, come si chiama quell'altro? CRT Millennium alias Midland M10 o simili, ne hanno fatti con tanti nomi, ma l'apparecchio grosso modo è sempre lo stesso. Vediamo questo President Bill se è simile, riprendete. È piccolino, l'ho visto io una volta. Eccolo qua, qui da Escort HP 6005, ha trovato 12 volt, c'è l'attacco del microfono particolare, dai. Lo abbiamo rotto. E beh, già. E allora? Aspetta, sa qua. Qualcuno ti stava nominando un tuo ex collega. buonasera a tutti, uno per volta, nove sopraffatti tutti quanti. Tutti fatti siamo. Chi è che mi stava nominando? Chi è? Io sono rientrato. Eccolo, ben rientrato. Praticamente c'era un'intervista di chi era? Come si chiama? L'intervista era Paul De Santi. Gliela faceva quello che canta Renato Zero, come si chiama? Ah, buon, giù mi sono dovuto, cambiamo discorso. Ciao a entrambi Gianni. Buonasera a todos. Ciao Marco e ciao gli amici nuovi che sono entrati. Dai Gianni e via dicendo. Allora, ho visto l'apparecchio, è molto carino, questo di comodo ha che, sempre di quella serie lì, micro, da macchina, però a volume squelcia manopola, mentre quello PNI Escort, devi premere menu per azionare lo squelch, il menu forse anche per il volume, e questo è più immediato, c'è anche la presa USB frontale, molto carino. Il prezzo? Aspetta, sto guardando il prezzo, 134 euro, no, stiamo scherzando, aspetta, centro elettronica radio, centro elettronica, riprendete dai. Beh, se così è scritto quasi, vediamo un po' se Carlo si sta avvicinando, Carlo? Secca ed è facile anche da fare la modifica, l'ho fatta tranquillamente io che sono una cina. Sei Carlo? Sì. Sì, Carlo, via Carlo Felice adesso, vicino a Carbonarti. Ehi, allora sì, c'è su Amazon, 99,90, è quello? 99,90... spedito da Amazon, proprio venduto e spedito da Amazon, sì, praticamente siamo lì, dentro probabile che sia molto simile, però caspita, il doppio, praticamente il doppio. Eh sì, è quello lì, io addirittura ci attacco il Fredcaric che è abbastanza potente, l'uscita USB per la ricarica, sì, anche un tablet ti riesce a caricare. Non fa che di me lo va a usare. Oh, che fusaro ti dai Polmar, per carità di Dio, no, non più. Gianni, riprendi. No, che c'è il coso, c'è il midrand fusaro, tranquillo. Ehi, vabbè, ma... Adesso a comprare baracchini di nuovo. Io non ne voglio più. Io l'ho fatto. Io sono pieno. C'ho la provvista qua. Ma in macchina io non mi posso mettere quel barrasone del coso, no? Il del 3009, no? Hai capito? Io ne volevo uno piccolo da mettere in macchina. Ma... Mi, ne abbiamo parlato stasera con un CB che era il passaggio. Allora, il 3009 in macchina è il più silenzioso in assoluto. Quando metti questi nuovi apparecchietti, tutti SMD, sembra una friggitrice, è la fabbrica dei rumori. Soprattutto con queste macchine di adesso che hanno 1000 centraline, non te ne dico nulla. Il mio rumore non è fatto. Ma il tuo qual è? Non lo sai qual è. Ma, no, io sto dicendo, questi omologatini, tutti questi derivati, CRT Millennium, questi micro, io in macchina sono delle friggitrici rispetto al 3009. 3009 è il più silenzioso in assoluto, è che ho un marasone. Io ho l'S980 che mette in macchina. Ah, delicato mi, senza apparato sei rimasto. Signori, devo staccare, comunque è molto carino il bill, comunque di quella serie lì, sì, ripeto, ha di buono che ha le manopole, volume squelce è più immediato, molto molto più immediato, il resto è tutto da menù. Signori, stacco, rimango all'ascolto, avanti l'altro Gianni il profeta, avanti. Eia, dai, saluto nei circolari a tutti, anche io Carlo lo sentivo andando e tornando, vabbè, anche io sto finendo di sbrigare cose qua al PC, dai, rimango in ascolto, casomai rientro più tardi, ok dai, avanti Frengo. Ma è cambiato parecchio? No, sto uscendo con l'Uranus. Perché è diversa un po' la modulazione, comunque sempre ok, dai, però si sente che è diversa. Ehi, dai, li facciamo girare. Oh, dai, fianco per me, dai, ci sentiamo più tardi all'inizio. Sì, sentiamo, buonasera. Capo, un abbraccio. Vediamo un po' se c'è Carlo in zona. Carlo? Ciao Gianni, stai chiudendo? Sì, adesso sono in Piazza Lessegni, mi senti? Sempre basso però, ti sento ma sempre basso. Sei in Piazza Lessegni? Esatto, in Piazza Lessegni. Vedi, eppure è zonata, qui non arriva a Porta Mesiere. Ripeto, ma la colpa è la mia, non è colpa tua. Eia, chi è rimasto? Natalino, chi c'è? Gianni, doppio room? Credo di sì, Natalino. Forse credevo male, riprendi già. Dai. Inginella, sì, io caro. Sì, a fare commissioni, mi serviva una chiave dell'ufficio che un collega me l'ha fatta completamente sbagliata, neanche entra nella serratura. E allora ne ho trovato un'altra che era un po' difettosa, da una parte apre, dall'altra no, e quindi siccome li sono bravi a fare le chiavi, io vado sempre alla casa della chiave e mi sono trovato sempre bene, facendo questi giretti. Adesso devo andare alla Conad a fare un po' di spesa per casa. Se no lo sanno fare loro, è che lo sa fare. Cappa Gianni, vabbè. Stai facendo i dubbi, dai. Mica è rientrato Antonio, Gianni. Sì, dimmi al più, cosa hai detto, non ho capito. Lì facendo le chiappe, perlomeno, non ce l'ha sempre fatte bene. Di un po' che tariato, vabbè che le materie prime sono aumentate pure. No, già io da poco ho comprato anche delle serrature da sostituire di un portone e non avevo le vecchie, gli ho fatto vedere la fotografia, mi ha chiesto solo se erano quelle staccate oppure quelle attaccate a tutto il gruppo, gli ho detto com'erano, me le ha date, perfette, le ho messe e sono di ottima qualità. No, già vende roba buona, magari un pochettino più cara degli altri, però già vende roba buona, quello lì. Già è abbastanza all'avanguardia come cosa. Sì, Antonio. Sempre bene mi sono trovato, adesso una chiave, la coppia, 1,20 euro, altri te la fanno pagare anche 1,50. Sì, ma le materie prime sono aumentate molto e ultimamente costa tutto, costa, cioè qualsiasi cosa che tu compri sempre alto il prezzo. Caspita, io facevo il pieno della mia macchina, 47 litri di diesel a 65, 67 più o meno, 47, 48 litri, dipende da quanto c'era di riserva. L'altro giorno sono andato, il pieno era a riserva, praticamente ho speso quasi 90 euro, 89,40. Sì, veramente. Centaglia proprio, cioè un litro di benzina a 2 euro, anche il gasolio mi piace a 2 euro, ma dove vogliamo arrivare? Sono aumentato anche il gas, è aumentato, cioè ha preso la piazza, chi ci sono macchine, non so sane di capo, no? Sono pazzi, sì, perché i maggiori produttori di gas naturale e di, diciamo, petrolio sono i paesi arabi, solo che accordi con i paesi arabi non ne stava più facendo nessuno, tutti avevano acquistato dalla Russia, dall'Ucraina e adesso ce l'abbiamo tutti nel culo, capito? Ci paghiamo noi, infatti il ministro degli esteri Di Maio è andato una settimana fa, è andato in Algeria e adesso è andato, mi sa, nel Qatar, capito, per fare nuovi accordi di forniture. Lungo il romano della bocca, te lo bucchiane, per carità. Speriamo bene che riabbassino i prezzi, perché così è un salasso, cazzo. Ma certo, ma se va con i 22 gasoli non ne ci più me. Cosa esci? Non ci più nulla. Cioè, ci vogliono sempre più soldi, più soldi, più soldi. Chi ti somma? No. Non sono sani di testa. E il 50% di quei 2 euro se li prende lo Stato, perché ci sono le accise, capito? Tutte tasse che paghiamo sulla benzina, perché è un bene primario e lo Stato ovviamente tassa quello. Ah, ma se posso vi subato pure a fare la guerra. I vecchiani cicli dei vecchiani, cioè, ma ampio veramente. Cioè, per me questi vorrebbero presi e tanto già paghiamo noi, non è così Gianni? E Gianni se ne deve essere andato a fare un giro, dai, già rientrerà dopo, Anto. Sì, sicuramente deve essere andato mattino, ma oh, io adesso faccio un attimo di bianco perché scendo giù nei parcheggi e da lì non mi sentite più alla Conad, questa di via Gramsci, capito Anto? E come finisco poi di fare la spesa rientro a casa e già, da lì già mi sentite meglio. Ci mancherebbe che non ti tengo, ti tengo un po' in occhio e non ti tengo un po' in chiesa. Lì sento fortissimo arrivare qua, logicamente. Va bene, ciao, ci sentiamo. Gianni, ci sei ancora? Ciao Antonio, a più tardi. Ciao Carlo da parte di Marco, ciao. Ciao Marco. Gli ho dato un'occhiata, è veramente interessante anche per la per la qualità della modulazione. Me lo segno questo, interessava una persona. Ok, ciao, buona spesa. Ciao Marco, ciao, alle prossime. Ma cos'è Marco? È un baracchino di dimensioni molto contenute per la macchina. E, però ha lo stesso chassis, la stessa buccia, probabilmente anche all'interno è lo stesso, quasi lo stesso apparecchio, per non dire lo stesso, di quel PNI 6005, no? Però questo ha una modulazione bella neutra, non cupa, una modulazione come il presidente che c'ho io, come il presidente che c'ho io. È una modulazione con la timbrica normale, limpida tipo questa, mentre il 6005 PNI ha una modulazione cupa, anche se apri un po' la LC tende a risultare più cupa, più barattolata. Questo ha una modulazione ottima per essere un apparecchio di quel tipo. Ma sarà come quello che si è preso fuori di Amendola, no? Come si è preso Andrea, o sarà tipo quello, no? Allora, c'è un ragazzo a Sassari che usa un apparecchio simile, piccolino, però è il PNI 6005 e infatti esce più cupo di modulazione. Il volume è abbastanza, diciamo, normale, quello di un apparecchio normale, però più cupo. Questo ha molta fedeltà di modulazione, la timbrica, diciamo, neutra, capito? Non barattolata, non cupa. Costa il doppio, vabbè. Poi di buono c'ha che, a parte le manopole, anziché i tastini da premere, che è un casino, c'ha la presa microfonica a 6 pin, invece il PNI c'ha quel cacchio di RJ45, tipo telefono, tipo il modem, per carità. Questo è superiore, superiore. Chi c'è rimasto qua? Natalino, Gianni? Io sono rimasto. Ehi, Natalì, quando mi sono allontanato mi stavi dicendo dell'antenna, di quella frustanera. E allora? Ehi, stavo finendo delle prove comparative, perché sono riuscito a parare oggi quella antenna che ho preso, no? L'ho sempre lunga un metro. E vorrei fare l'ultima prova comparativa, magari un po' in distanza. Se io riesco ad andare a Protorre, sono questi giorni, mi metto al solito punto buono, chiamo Sassari, metto una, metto l'altra, voglio capire le differenze, però credo che siano alla pari, tutte e due. Anche quella è caricata al centro, quest'altra che ti sto dicendo. Natalì, però una cosa, tu la sfrutterai questa antenna? Perché io ho sentito che c'hai una PLC, non ho capito se sulla macchina hai messo la PLC 800, cioè se io so che la sfrutti, che la usi in macchina, te la posso dare, ma se tu la, se te la tieni in casa per metterla sul frigorifero è sprecata proprio quell'antenna. No, sul frigorifero voglio mettere quella con la base magnetica, in macchina c'ho l'attacco fisso io per quella lì, tolgo l'antenna VHF e metto quella lì. Eia, ma tu non sai che ho preso anche l'accessorio per trasformare da galletto a PL, è la più, anche sulla base magnetica la puoi mettere. No, io c'ho, nella base magnetica c'ho l'attacco della PLC, capito? Adesso che sono riuscito a pulirla sotto, perché la fresa ho dovuto usare per togliere la vernice in quel cavolo di base magnetica, non ne usciva. Vabbè, adesso fammi ultimare quest'ultima prova, però in distanza la devo fare, perché in città siete troppo forti. Cioè io essendo a Predaniella, ti ricordi? Cioè non vedi la differenza, io invece volevo percepire, adesso che l'ho tarata questa stantenino nuovo, volevo vedere se erano alla pari. La lunghezza è uguale ogni tanto, caricata al centro, tipo l'altra. Ho capito. Franco c'è ancora, chi c'è rimasto? Tanti ostacco, adesso devo andare, devo mettere la moto dentro, devo fare commissioni. Sempre comprare gli apparati, sì. Marco, altro te ne sei comprato? No comment. Che è meglio. No, roba robetta così, roba di contorno, niente di impegnativo, no. L'antennino è che mi serviva, un antennino da piccolo tipo metro, perché quella da 1,60 è troppo lunga, ma per la città è impegnativa. Poi quella tipo vigile urbani è troppo corta, è 65 centimetri, basta un palazzo e non arrivi più, questa è lunga un metro, è caricata al centro, è una via di mezzo, dai. La frustanella l'hai comprata, sai che sta andando, se la trovi, adesso dice che c'è un amico che è morto, vabbè c'è il negozio e me la deve buscare se la trova. Ma ce l'ho la frusta nera, ma quale sei centro, di quale lunghezza? Io ce l'ho lunga un metro, che poi è il radiale della, con lo stub di taratura della, come si chiama Natalie, la boomerang, quella full size della Lem, mi è rimasto il radiale, in perfette condizioni. Ma non c'è l'attacco. Come l'attacco? No, io per provarla l'ho usata sulla base magnetica con l'adattatore da galletto a PL, taratta 1,3 sull'1, 1,3 sul 40, un BG2. E io sto cercando quella caricata, come ce l'ha Franco California, quella lì va per bene. E quella lì sarà, quella lì che vuole Natalino, basta che se la usi però, cioè non è che se la mette in cornice a casa non ne usa, se no è un peccato, qua è Natalino. Ma brava, ho detto che c'è un attacco fisso in macchina per quella lì, capito? La base magnetica me la uso sul frigorifero per ascoltare. Eia, ascolta Natalino, la PLC che attacco ha è diverso dal galletto DV, vero? Eh beh, è diverso sì, c'è l'attacco suo, no? Praticamente è l'attacco Sigma, vero? La PLC è della Sigma. E allora, è grosso come attacco, no? Me l'ho tolto dalla macchina e avevo messo quello a galletto, quello piccolino. Infatti, quella frusta nera, l'attacco lì. Comunque è sopravvalutata la frusta nera, cioè alla fine è una banalissima antenna, come ce ne sono tante, tanto più che la Sirio le produce in chiave moderna, sempre delle retroresina, sempre nere, sempre con stub di taratura, cioè sia a vista sia la versione occultata che non lo vedi, addirittura c'è con la doppio l'avvolgimento in rame elicoidale, doppio, capito, per tenere più alto. E c'è tipo circa 90, c'è da mi pare 70 centimetri, un metro, 1,40 m. Più lunga è, più rende. Eh sì. E voi ve la ricordavate la PLC 800 o 1000 in vetro resina dei metà anni 80? Proprio metà anni 80. Era un mostro. Nera, color nero, credo che ce l'avesse Marco 131 in macchina. Ce l'avevo anch'io, ce l'ho avuta nera e bianca. Io avevo la Sigma DX. Poi sono arrivate alla CTE, alla Midland, sono arrivate le prime antenne in stile americano, quelle tipo quella che ho io, no? Con lo stilo d'acciaio, la mollettina alla base, aveva una serie, aveva un nome particolare, tipo CTE Crystal Series, Diamond Series. era il nome, c'era di tutti i colori, ti davano la base magnetica col colore abbinato all'antenna, no, alla bobina dell'antenna, gialla, azzurra, nera, verde, tutti i colori. Praticamente la mia è un derivato di quelle là, della vecchia serie Diamond. Ma adesso antenne poche se ne trovano buone. Sì, se vuoi buona devi andare sempre di roba turbobille. Così si chiama, sì, la LEM. Oppure la Sirio 5000, Performer 5000, quel bestione. Che sia pur di poco ha fatto le scarpe alla Turbo 2001, magari quel mezzo Santiago, però me l'aveva detto Luigi Vulcano, mi pare, una volta che avevano fatto una prova comparativa nella stessa identica posizione. Ma è da cambio, è troppo pesante quella. È un bel grosso, è più grossa della 2001. Sì, lo stiro è imponente, sono 2 metri pieni di antenna. Ma infatti in macchina, guarda, persino la turbo è... devi mettere quel rinforzo per il centrotetto, se no ti piega la lamiera, eccetera, già lo sai, già mi pare, se è capitato a te o qualche conoscente. Signore, devo staccare necessariamente, devo fare le commissioni prima che chiuda il coso. Ciao a tutti, buona serata, proseguite, ciao, vabbè, anche le ascoltoni, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo, buona serata. Ciao Marco, buona serata, me ne passo in quel rettilio che devo fare cosa. Salutoni a tutti, anche agli ascoltoni. Là. Ciao, Natale, ci sentiamo, buona serata anche a te. Ciao Marco, ci sentiamo. Ciao Natalino, anche a te. Anto, solo tu sei rimasto. Sì, solo io sono rimasto. Il supplente. Adesso sei con l'antenna grande. Sempre con l'antenna grande, non è un'antenna piccola io qua. No, poco fa eri in macchina, diciamo che non quello. Adesso sei più forte, ti arrivi bene anche di radio. No, è passato cosa, è passato a salutarmi. Cristi è passato e ho fatto un paio di passaggi con quello. Io stavo passando, mi hanno fatto partire ieri tre fusibili da 7,5, no, c'erano sempre quelli, altro non partivano mai. Se tu lo metti più alto, la corrente passa, se c'è un cortocircuito ti brucia lo baracchino. Ma dipende sempre, dipende sempre quanto assorbe, cioè l'apparecchio che stai usando quanto assorbe. Sì, ma sai cos'è? Ho lavato la macchina, magari era un po' bagnata, e cosa è? Ha fatto corto, l'antenna, ha dato problemi quello. Perché poi l'ho asciugata bene, dopo se c'è il recinto, tu canta, non partono più. Pure, e l'altra volta lo stesso qua, cappolo, ogni altro ti interrompeva. Andammo in Italia, tutto pieno d'orsi dove era, ho dovuto pulire e riattaccare, adesso gli ho messo un po' di vulcanizzante, va bene. Nella telecamera? Nel filo, tutto pieno d'orsi dove, non muri a viso. Quale filo? Il filo dell'alimentazione. Ah. Capito. Oh, l'ho preso, gli ho messo il CRC, l'ho pulito bene dall'orsido. Poi l'ha già viaggiato, non ha fatto più nulla. Già veniva un poco di ossido, era pieno, era. Il WD-40 ho utilizzato. E quello lì lo scioglie. E anche io uso quello lì. Ne l'ho messo nella batteria per evitare i contatti, cosa del genere. L'ho messo nell'antenna, l'ho sparso tutto con l'acciaio pulita bene, è lucidata. E poi è andata bene. Okay, devo lasciare, ci sentiamo. Ok. Devo uscire. Ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo. Oye, cocodrilo. Sono le prossime, riprendi a tu. Non è il problema arrivare alle 9.40 me che siamo un tiro di schioppo, devi arrivare fuori, quelli attivano la testa, ve l'ho sempre detto, i segnali si chiedono fuori, non uno vicino all'altro, 9.40, vicino a Moduleti, 9.30, 9.50, Catabo non arrivi di Reno che era Andrica, tu è proprio devi fare fuori, fuori Sassari, vedere se aumenti, se va bene, se c'è l'incremento del lineare, no a domandare un controllo a me, a Daniele, a Gianni Doppio Rum, siamo troppo vicini, capito? Non fa testa quello. Segnali, sempre fuori Sassari. Beh, è normale, se arrivo un po' a te arriverò anche fuori Sassari. È normale. Quella è normalissima la cosa. Cioè, se metto un amplificatorino da lì riesco forte veramente, arrivo a Pisa, Usini, a Muro, se arrivo bene, giustamente. Quello è normalissimo. Sì, ma vi sento spesso, io sto molto in ascolto, vi sento spesso, ti passo, quando arrivo, quando non arrivo, se siete una attaccata all'altra è chiaro che arrivate bene. Il problema è fare le prove quando c'è un corrispondente da fuori, allora lì si vede veramente se l'antenna è a posto, se è tutto ok, capito? Va bene, dai, vi saluto Daniele, riprendi, ciao a tutti, correti per me, bye bye. Si conferma Claudie, parole sante, bene veda. Dai, buona carica, buon tutto, alle prossime se coincide, dai. Riprendi Antù. Poi proveremo fuori a vedere come arrivo, perché da lì dovrei sparare molto bene nelle zone più meglio di qua, e c'è un baracchinetto del cavolo, cioè, non è che ci abbia chissà cosa, però lì magari un po' più, ma mi sarebbe rialzare un pochettino il palo. Va bene, sì, ti sento bene, ti sento bene. Guarda, sento in mezzo al QRM, Antù. La bagatella. Ho capito, Cristian, ci ho detto anche l'altro giorno se non sbaglio. Adesso mi hai fatto ricordare. E manco Mario, noi da manco Mario, via. Ehi, quei nomi sono legato io. Cavolo, non l'avete capito. Adesso. No, te lo sento bene io a Cristian, non c'è problema. Gappa gappa. Gappa gappa. Quello dove sei tu, un bel corto a quella boomerang. La boomerang? E chi c'era la boomerang tu? No, la Grand Prix volevo dire. È un bel corto, Piccola ma sincera, ma non, non lo so, Antù, non lo so. È tutta un'altra cuba. No, ma pompa forte però, per essere così piccola sta spingendo anche molto. Spinge, va interessa la ricezione anche, oh, spinge, arrivo forte così. Capito. Adesso vediamo, sto aspettando gente di fuori, capito, come la ricezione. Già lo so, già. Grazie. Un tocchi. E rompe le scatole. Ora. Gava, vedi, vabbè, Cristian non so se era